poi mi ha chiedere, cioè dobbiamo rifare nuovamente la domanda oppure parte automatica. Non lo so se dobbiamo fare la domanda, non mi hanno detto niente. Adesso vediamo. Quella di l'altro mese dovrebbe essere fra poco, quello di 55 anni. Dopo gennaio mi ricordo che era, quindi adesso mi faccio il foglio di nuovo. Questi giorni e così poi lo consegno e poi se la girano loro. Bisogna vedere com'è. E tu sei uscito stamattina? Sono uscito, ma niente di niente particolare, che sono andato anche l'ufficio come detto, ma non vedo nulla. Non ho capito niente, no? Ti sei abbassato? Che sono andato all'ufficio del collocamento, ma non c'era un cazzo, non c'era niente, né domande né nulla. Non c'è nulla all'ufficio del collocamento, cosa ci vai a fare? Va, a perdere tempo e basta, capito? Adesso dovrebbero fare dei lavori nuovi, boh. Quindi dovrebbero sistemare i rioni di Lateroce, Santa Maria di Pisa, eccetera, eccetera, e penso che chiameranno qualcuno a... Ho visto i negri pulendo l'altro giorno, stanno facendo giardinaggio, quindi evidentemente li ha assunti il comune, questi extracomunitari. Beh, li avrà assunti il comune, penso di sì. Hai capito? Non ti sento. Ho detto, li avrà assunti il comune, dunque avranno fatto, l'avranno assunti loro, boh. Sì, sono stati assunti in comune per fare pulizia dei giardini e roba del genere. Io ho visto io pulendo l'altro giorno, capito? Ormai chiamava questi, così almeno li danno un tanto, capito? E non pongo le balle, almeno passiamo l'ora. Vabbè, ormai noi siamo diventati peggio di loro, peggio dei zingari. Cazzo, noi adesso fra un poco diventeremo cattolica protette. Lo sai che sono protetti, cosa li ruba, non puoi farci nulla, no? Ce li abbiamo caricati, anzi ce li abbiamo anche tenere, non so d'altro. Quindi qualcosa devono fare. Sono intanto vanno a rompere le balle agli altri. Vanno in giro, sono a truffarsi e ubriacarsi, boh. Non hai visto il casino che è successo in giunta, no? Al comune, che si sono afferrati con le 5 stelle con loro. Alla linea? Antonè. Non ti ho capito, ma alla linea che mi hai detto? Ho detto che in comune, quando hanno fatto la riunione ieri, si sono azzuffati quelli delle 5 stelle con gli altri. Già lo credo che si azzuffano. Quando c'era del sole, era tutti i giorni che si azzuffava quello, ogni volta che c'era riunione lì al comune, sempre si affarrava, capito? Poi infatti già non hanno più, non è pentato in comune, capito, come assessore. Sì, adesso è a rischio anche Sanna, il sindaco, dice ma avete tradito, ma avete buttato fuori dal partito. Per forza ha portato fuori la partita, se non ha fatto un cazzo in vita sua, cosa ha fatto per Sassi? Non ha fatto niente, ha solo rotto le balle e basta. Il prossimo anno neanche ce lo mettono, non ti preoccupare come sindaco, lui ha finito, capito? Con tutto quello che ha combinato, cosa gliene frega a lui delle cose, di questo casino che ha combinato. Adesso i prossimi che entreranno toglieranno tutto, stai tranquillo, tutte queste piste ciclabili le elimineranno tutte, te lo dico io. È meglio così, almeno da lavoro al cliente. Mi sono aggregato alle piste ciclabili per cosa? I soldi di altre cose ce le ha messe lì. No, ho capito cosa ce ne facciamo la pista ciclabile, non mi sa. Non la sta usando nessuno, anzi, ci stanno parcheggiando sopra addirittura, se noti bene, la domenica. Cosa vuoi ti dica? Le prossime elezioni la salta, Sanna, capito, non lo candideranno più, quindi salta, ci metteranno qualcun altro, sperando che faccia qualcosa di buono. Poi, lascia perdere, entra uno, entra un altro, guarda. Vediamo un po', ci metterà qualcuno del centro-destra, cosa cazzo ne so io. Almeno si mangerà i soldi anche lui, come hanno fatto gli altri. Beh, se la lei lo lasciamo sempre lui. Sì, appunto per quello. Purtroppo è così, così, è cosa vuoi fare allora? Chi la prende il culo siamo sempre noi, lo sai. Prima i zingari, poi gli extracomunitari, e poi eccetera eccetera. Come diventare zingaro? Almeno ti danno 5.000 euro per andartene, cazzo. Passi da una regione all'altra, fai 5.000 in una, 5.000 nell'altra, e ti fai di là. Vabbè, è così, è così. Casino. Poi gli stanno bene. Rubano. Si fanno la casa, c'hanno la casa come la roulotte, anzi con la roulotte, quindi... E se prendono i soldi, fa nulla. Tutto attacca al tram. E noi ci attacchiamo veramente al tram. Purtroppo è così, non ci possiamo fare nulla. Purtroppo, e la vita è così. E non ci possiamo fare nulla. È un casino. È un casino, sì, è un casino. Guardate, siamo nascosti, sono andato a farmi la spesa, no? Male. E c'erano quella roba, i cacciaviti, quelli piccolini. Sì, cacciaviti, piccolini, a un euro. Sì, sono pieno di cacciaviti io qua. Cacciaviti, pizza di tutto faccio. C'è anche la boletta. Tu l'altra mola già l'hai visto da tuo fratello, quella grande grande. Sì, già la sonda, la sonda. Un euro, se c'è capito di quelli, se capito, quelli, in tutto, se una parte scende dall'altra, 12. E se c'è capito piccoli piccoli, magari vai ai cinesi, un euro li trovi lo stesso. Vabbè, la prendi per un euro, la prendi, ho preso come l'ho preso. E vabbè, per un euro, vabbè, non è niente. A voglia. Sì, pazienza, la va bene così. Uiaia. Avanti, chi è? Chi è? Chi è? Quando torneremo a casa. Oh, Gianmarì. Ah, no, mi sono sbagliato allora. Perché? Oh, ce l'ho acceso, ma sto controllando i cani. Ah. E a te, quasi io ti salvato. No, sono drummito, so. Allora se fai, ti sei dentendo, bar sicuro, no? Sì, tra poco rifarà giusto, rifarò. Tra un po'. Beh. Cos'hai combinato oggi? Sì, cosa hai combinato? Ma già appoggio un poco, mi si gavi. Ho messo a posto e battiscoppa. Ah, tutto a posto allora adesso. Sì, mi devo comprare del silicone grigio per poterlo mettere sopra, non vedersi per niente. Ah, a Bricoman. Sì, un altro giorno, molto più bene. Tanto forse sabato passeni a campagna. A sabato te butti là. Sì, devo telefonare a questo qua, devo telefonare. E mettermi d'accordo per portarli giù. Ci devi andare tu proprio a portarli, così è. Devo portarli io, più gli devo portare una coperta e un materasso. A che devi venire drummi nel morbido. Ah, così è. da un materasso di vento matrimoniale, to. No, perché sono abituati a dormire nel morbido, sono abituati. L'ho preso. Ah, ecco. E dovrà avere il sottofondo mobile, e beh, se sono abituati infatti, allora è già l'altro discorso, va. No, oh, sia via da bui, sai, tieni in giro e non dormi bannuta, e magari non mangiano, quando eravamo noi ci abbiamo dormiti, e cosa è? Con grande sì, no? Sì, col grande. Sì, occhio. Bella, forte e chiara. Sì, ho messo a posto il capo, bene, ho messo a posto. Quindi ho passato tutto dietro il batiscopa. Ma così non mi dà di basso di un'unità. Eia. Ma non c'era nessun altro, non ha sentito nessuno. Sì, stamattina c'era Graziano, Franco di Sorso e poi l'altro, non me lo ricordo chi è. Uh-huh. E non ho acceso stamattina, stamattina devo fare un'ecografia. Sono stato tutta la mattina e a luna passata siamo arrivati qua. Tutto mangiare fino a bocca di niente, gatto. Io lo so così, cosa vuol dire? Non lo so, quando si fa fare una visita, sai a chi la entri, ma non sai a chi la nessi. Beh, niente, un bel, gatto. Gatto. E siamo usciti presto. Poi l'ho fatta lì da... le cose, di Roccaferro. Non ce l'ha posto... per la macchina nessun posto, allora ci ho dovuto andare in via di mille, l'ho messa in via di mille e siamo sceso a piedi, che è un macello. Solo a pagamento riesce a trovare posteggio. Ma è l'unica, almeno sei tranquillo anche, capito? Da voi, Cata, abbiamo pagato. Vado a uscire, ci metto le cartelline su un coso per uscire e non si apriva la stanghetta, cazzo, si è bloccata, e la bocca ma che ha detto a me, ha dovuto venire dalla gabbiola, ha dovuto venire quello là, ha preso la chiave, ha aperto il coso, l'ha fatta aprire da lì, cazzo. È un macello questo. Ehi, non ci incantano. Queste cose sono proprio che deve esserci il coso a aprirla, che loro usano la chiave e lo aprono. Nemmeno da dentro apriva, nemmeno da dentro. Ho dovuto venire e aprire la cassettina dove si infila la scheda, no? Ha aperto questo, quello lì e allora l'ha sbloccato da lì, capito? Infatti. Che cosa è così, a far così? Comunque, cazzo, c'è due giorni, ero in cosa, in sala, c'era il sole dopo che ho pranzato, poi si è annuata, me la bilancia due prete, penso che entrava a 30 in oga, qui sì, ma qui no, per caso. Infatti, ma come vai a rimanere... Rubredo no. E fra 10 minuti, un quarto d'ora mi preparo e scendo. A Macusia, da voi si buoni a drummissi buonini, tutti e due. Basta che non mi diranno voce a me. Okay. Vabbè, è acceso quattro, intanto quando rientri chiamo, ok? Ci sentiamo dopo allora. Sì, ci sentiamo dopo, Giammari, ok. E lui? c'è? Cosa c'è? Ma lo conosci TTT? Scuffo! Ehi, io... Ma lo conosci TTT? TTT? TTT? TTT? Ehi, giù! Scuffo, dove sei? No, sveglia solo, sono la computer. Fatto ieri praticamente la, si accendeva e si spegneva perché c'era la ventola inchiodata, allora gliel'ho sbloccata e adesso è perfetto. E che ventola? L'alimentatore? La ventola del computer che c'ha il portatile dentro, no? Tutti i portatili, ce ne sono che non ne hanno, ce ne sono che ne hanno. Comunque questi PC ci sono adesso, dai, che hanno la ventola, si è inchiodata. Io l'ho sbloccata, adesso è a posto. Ah, il mio ce l'ha, però io ho anche quell'affare che metti sotto, lo puoi alzare, abbassare, regolare. Ci sono le luci blu e due ventole sotto. Per rinfreddarlo accendo anche quello quando lo adopero. Fa di tutto romanzano, no? E tocco se è caldo, accendo, attacco quello stesso al computer. Vabbè, comunque la ventola prima o poi vorrà pulita, perché quella è proprio quella che fa dissipare l'aria da dentro, dall'interno del computer. Ma chi sono tratta un bel io noi che so cogna di Natale con Pizzero, ma io in questi giorni adesso che lo sto usando. Vabbè, comunque prima o poi grazie, non c'entra niente, si accumula la polvere, se ne va a finire, se la aspira dentro. Adesso dovrò fare il mio domani mattina. Io lo faccio ogni mese. Piazza ogni mese, io il mio lo copro anche. Mica lo lascio sta fatto. Adesso fai che ci è passato un mese e mezzo, dai, più o meno. E meglio sempre tenerlo conto. Smonto la ventola, la pulisco, gli do una spruzzatina di prodotto, e cambio la pasta di raffreddamento ed è un gioiellino. Vai, viaggia che è una bellezza, così non surriscalda il processore e va bene. Sicuramente quel PC ha un po' quello che ho fatto ieri, un po' il processore è cotto. E quale? Il tuo? Il tuo? Ti ho detto quello che ho fatto ieri. Ah, non mi viene andare. Non è un problema, era quel periodo per l'antivirus, ma già l'ho risolto. Acqua non ce n'è, mi sono lavato a pezzi, adesso sto andando a consegnarlo, stavo cambiando. Aspetta un attimo. Eia! Pa. E questo gallo? Pa. È un gallo grande, invece, arrivati tutto, qui la valla. Chissà quella ventola a pressione, che cuci. Davvero? E allora? Si muore 4 sicugabi di Giotta, Drenco, 3-4 battati, una goccia di Zellaro, la Giotta, Andrea, chissà, Ruglia, la Brea di Brimucoli. Il gallo c'è e poi buone da fa pressione e fermo un bruno. E zincubomboli attaccati. Se la mette la pressione è buona, usa il vetro, li sciugli, altri sciocca, è divino, Gio Marina. Davvero, ciao. Bello bene, chi sa non si avvicina, se non avrebbe tanto, bello bene. Ti sento sopra popolati. Ehi, il passo di chi? Come dai, Giovanni? Sei più sopra movimenti, Graziano. Ma di tu veloce, Graziano, non lo sai, Giovanni. bisogna tagliare a finire il vicino. Mica sei tu, mi bello bene, che c'è il ditino veloce. Adesso che ci sei la batarrate. Io quando mi voglio male, sapete lo tagliamo, ora non tengo dopo lo tagli, lo facciamo viceversa. È l'importante che si accorsi che il suito è. Perché però un tempo diciamo al dito veloce, perché col dito veloce, cazzo. Per carità, cazzo. Non vedi l'ora di movirlo che suito, cazzo. Così è bello bene. E allora, bisogna approfittare a finire, va. A Luca Montanaro, chi suito. Bro. Oh, però torre di assentate, era il 27 anzura. Ti assentate un attimo. L'ho sentito a mezzogiorno e mezzo, sino alla una era con me. E ci ha ricostruito tutto il filo, che ci ha mangiato il cane, l'ha bedubato, l'ha assaggiato, l'ha pulito un bombolotto. E già funziona bene, mi ha chiesto dei controlli. Già l'ha fatto bene, anche Lucano si era mangiato, ma forza, l'ho andato a mangiare, già non credo che ci si mangia un figlio, alla fame, meglio di tutta. Ma un po' dolce a digerirlo che il suo figlio è. Maricani che va, tu, digerirli finisce un ferro digerirli, lo si. Le farà bene da se ci incontri tutti, non vorrei mai niente, peggio di un cinghiale. Così, Questo è un cinghiale, ma è un cinghiale, già chi c'ha le cose maledette, gatto. Se, Rossi, mi ha detto come te ne fa, da pettariti. Ha succiato da chi non rovina in campagna, le buone che sono, si maduri, che mi dà di animacelleria. Le cose hanno avuto, tutto misciato, ministra, ha detto tutto, si è messo, tutto è i faria dalla circolazione, le frantumava se ce lo mangiamo, ma grosso in me. Allora, si vede che va a cacchio, eh? E allora, come ti va di Luca, gufo, valentiere, spettacolare. Deve essere un acciaio inox. Oh, per che porti vai? Allora, un cavazzo, Siamo la fatta d'acciaio, Ed. Vivente. Come ti sa già d'ore, non fa male. Per cui, grazie all'assaggiare di te. Allora manco fare i denti che brillano. Aspetta che passa il treno. Non l'ha atteso a Luca Gufo. Cos'è? Luca Gufo non si è sentito. Con l'influenza è messo male. Sì. Ci vuole le supposte grosse per adesso per guarirlo. C'è il diritto bruio che sta zia Mari, vuole la supposta. E in base alla grossezza ci vuole la supposta. E poi Duca veniva una di questa grossa virubaro. A tipo bombola da dezimi. Allora vi attaccarli la supposta grossa. Tanto è ormai il passaggio ve l'ha già fatto, senza la solasura. Se non vai con una bella suppostona, se non mi ribassa tutto, senza problemi. Beh, tu che ve la messa a piedisino, gatta. Un briccareggio per il buon infanno. L'aveva fatto bene. Tu pure la margusa la bala, Gio Maria. Però è deciso. Gatta, addirittura. Ridare la buona supposta, grazie, non è che finai tu la supposta dalla Luca, no? Tanto di voi, Nadio, basta e mi lo dici, mi chiama e li suppostemmo. Ah, sei disponibile allora? Per quale cosette dici quella volete, sì. Allora dobbiamo fare affare, là. Bisogna chiamarlo che si tenga pronto. No, che non feva oggi, che prima si ritirava con la faricchina. Ehi, già bisogna i cappuccetti, basta piazzarli lui, ma lo sicuro. Lu, io non ti sento, sia. Intente. Intente, come sta inteso? Di questioni toste, come si è acciarata la bambina? Quando la cosa piace, sai com'è? Ingordo. Bubu. Caruccia, spero che sei malata. Mi pensano a pesca a Dima, stavamo a Baiduri. Già vi sto ascoltando, sopportando. Ciao. Beh, sì, tu di entrava che c'è su capo di supposta. Apriamo, mi lo impriassiamo un poco con scivola, un aiutino. Sì, capo di supposta, inteso, sei entrato, ah. Sì, giù. Perché? Beh, adesso mi guardo questo, ciao. Visto là, il Montanaro, eh? Il bambinetto. Che? Bella be. Beh, a frappi, dai, ciao. Andando stai. Ehi, a fare delle compere, a consegnare il computer, a fare delle compere, dai. A comprarmi qualcosa da vestire. Ci sentiamo dopo magari. Le mutande sì, perché? No, senza, nulla. Nulla. Ma già è di moda, tutti i dini. Non te ne comprare. E lu. A dopo, ciao. Ehi, ciao. E dove che stai andando? A comprarci le mutande. Ma chi senza mutande? E allora? Adi ci viene la gente mondante. Bubu. La gente non è finita, no. Che tante di moda. Cosa? Dovete non spendere soldi, tante di moda uscire senza mutande. E allora? Infatti. Ah, ma continuate il fastidio. E allora? Va. Ed è già pronto di Samanita. Io te l'appoggio. E te? In te ci sono da dito. Ehi, vabbè, già fu arrombato Antonello, tanto oramai. Solo appoggiarsi in buffa a Rommi, chi non velluta, oramai sei frisso. Suppressato, Zocco. Visto l'hai, si è fritto, si è. Così è, Antonello. Allora, ormai sono vecchio e decrepito. Beh, Gian Marina, sentito hai, hai ragioni. Ehi, ma cara, è cominciato oggi la fine fra un mese. Sì, e chi da Santigini? Proprio, è sicuro. E se non fa la switchatura? Ma non vi piglia tutto, vita. Ti davo roba solida, dice l'Antone. Scusa, sai, non bighere. Bidulazza. Era un'anima d'Antonello, mi. Mimmi, ciao, torre senza motore. E che torre là il motore, mi. Non funziona, broia, là il motore, vero to? No, no, funziona benissimo. Che c'è di Graziano è che non anda più. E allora? Lui è pure maggiorato, 150. Un bicione da maggiorato. Un bicione da maggiorato. E ti direbbe su tutto quanto è bello, grazie a. Cosa è maggiorato? È sicuro. Antonè, diglielo già a questo ragazzino. Già, li funziona ancora il motorino. No, lo dico io. Oh, iaia. Anche se è vecchio ormai, finora te lo usa ancora. Sì, lo bisogna vederlo, se funziona ancora. Che quando vedi, vado che da maniera, ciuffiti, si abbassa. E allora, mica sono un galletto hamburghese, mi. Bella me. Grazie. I galletti, quindi sono ben, mi funziona. Senza rugane che faccio no, che è un galletto. Ma io ci sono galletti furati, oramai. Dile tutti i giorni Maria. Ah, io il ciocchino che... Ah, il sabato il ciocchino, Sì, è tutta questa cosa la batteria, Galletto vale spluga, Capito, già. Ma... a tole del giovano, no? Quanto ne vai a tole? 56. Cazzo, è giovane ancora, cazzo. E tu, Grazia? 63. Ah, più ragno sei tu, dai. E allora? Io peso 69. 69, 70, va? 79. 60, numero 6 e numero 9. Vabbè, mi pare di pesare 79. E allora, è sicuro? Allora sì, mi lo vedi. Ma, da vi credo, ma chissà che sia vero. A te il tuo vi credo. Ah, chi si è pensato, va. Vai, tu. Deve essersi allontanato. Tutto qui per di Graziano sempre, Catriano vedo. Graziano sì che se ne fotte. E allora, diglielo tu Antone. Vedo, vedo, vedo. All'ombra. Yes. Salutato dove sono qua. A fanculo ieri sono uscito. A farmi un giro, tutto da dove sono. È sicuro. Mi sta provando. Non lo sai che fa così. Lo dici nel tanto no. Peturai. Certo, ma cosa ti devo dire io? Arrivai in casa a Leoncino. Ti so che c'è da farmi una passeggiata a piedi. Da te sono salito ieri sera a Leoncino, Antone. No, Giuseppe non c'è salito qua ieri. Sono sceso io dal fratello ieri sera, alle 7. Sono bevuto un paio di birre e poi sono salito a casa. Gli ho consegnato al fratello un'antenna di quelle amplificate per analogica digitale per casa, di quelle portatili. Gli ho regalato. Ah, allora ci ha mandato dal fratello. È passata la madre dal fratello, è passata ieri. Lui non c'era, è venuta con la macchina. Ah no, quando ho sentito io era a piedi, cioè stava uscendo a piedi a passare la passeggiata, perlomeno così mi ha detto. Ah, sì, vabbè, ha detto anche a me che stavo uscendo a piedi, Giuseppe. Poi non so se magari c'è andato al monte, ai giardini, lì vicino. Eia. E tu a piedi hai uscito? Cos'è, Giomarino? Tu esci a piedi? Sì, a voglia. Che sei che mangiano? Dai nonghi ai ribussi, dai ribussi ai nonghi. Vabbè. Non è che sia lontano, però. Fa bene a uscire. A Tonello, va a piedi, a piedi. Che hai saltato, Antonello? Infatti sono sceso a piedi, sono salito a piedi ieri sera. Fa bene camminare, non è che faccia male, anzi. Almeno mi sono fatto una passeggiata, dato che c'era. Tanto dovevo aspettare il treno, dovevo aspettare il cazzo al freddo. Ieri sono passati di ritardo, anzi era, addirittura. È salito uno, è sceso l'altro, immediatamente. Era già le 7:15. Quindi era già ogni tanto è di ritardo a quell'ora lì. Anche la mattina lo fa. A volte salgono tutti due, una presa all'altro. Non sa più che la rifanno questi tram. Ma prima uscivo io. Uscivo lì, prendevo la macchina da qua e andavo fino a Maria Pia. La Maria Pia in questa zona posteggiavo la macchina e giravo a piedi. Uscivo anche a Piazza Italia, ne scendevo all'emiciclo o alla stazione. Giravo io e Mario, la buon'anima. Giravamo un bel. A fare un giro infatti a Mario non mi sono riuscito mai più. Dove voi ci sono riuscito, non mi sono riuscito più a chi. Catta, è un corrente, dice, a passo normale e non rimuoia affatto. Poi era un bel logo, no? Catta, io mi lo vedo. pare a un figliolo, però non riesci a pulirlo fatto. Cappa, aspetta che stavo provando una cosa. Il digitale stavo provando, gente. 6, 7, 8, 9, 10, 9. Eh beh, quello è il digitale. Eia, questo è il digitale. Senti come fa, guarda, quando cambio canale. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 digitale, esatto. Sì che ce l'ho. Lo uso insieme a Marco. Siamo in due a avere questo portato digitale, io e Marco. Ma io ti potrei sentire ugualmente oppure no? Se te lo copri uguale, sì. Se lo prendi uguale al mio, sì che mi senti, a voglia. Appena lo accendi va direttamente in digitale, poi devi premere un pulsante e puoi fare analogico, capito? Poi c'è l'attivazione squelch e poi con l'altro pulsantino piccolino ti fa i watt bassi oppure i watt alti, fa da 1 a 5. Allora noi non ci possiamo sentire qua dove stiamo parlando adesso? No, con digitale non mi senti per niente. Ah, così è. Allora bisogna migliorare. Certo, migliorare. Vabbè, esco tutti i digitali. Invece del baracchino allora. Sì, perché c'è una frequenza diversa, c'hai. Ecco cos'è, Antonello. Non è che sia una frequenza diversa, la frequenza è uguale, solo che la trasmissione è in digitale, per stesso analogico. Comunque fa analogico-digitale, questo portatile qua. Mi ha mandato la fotografia a Gio Maria l'altro giorno. Ah, cosa? Graziano l'altro giorno. Poi io Graziano l'ha mandata a Gio Maria. Ma è brutto, non mi piace quell'apparecchio. Se non ti piace quell'apparecchio lì, ci sarà la auricolare, non lo so, Gio Maria. È brutto. C'è anche quello con display, se vuoi comprarti quello con display. Che fa altro tipo di digitale, capito? La trasmissione. Vabbè. Da sarebbe migliore la ricezione, là. Sarebbe migliore veramente. Però se quella che di poc'anzi che parlava l'inglese, ecco, quella era in digitale, come mai io la sento? Quella è digitale, cioè, come diceva i numeri in inglese, è perché quando cambio canale io, capito? Perché è stato impostato direttamente dalla fabbrica in inglese. Se voglio lo posso mettere in cinese, ma devo entrare dentro al menu e cose del genere, capito? Il che non me ne frega niente, lo lascio così com'è e già va bene. Se ha 8 più 8 più altri, sono 16 canali tutto. Oh, è come questo. 2-7-2-5-5-0-0. Visto, anche quello parla inglese. Allora quello è digitale. No, non è digitale quello è analogico lo stesso, quello che stai usando tu. Capito? Certo, non lo... Ma sarei un po' proposto a sentirlo questo digitale com'è, come lo è. Vabbè, non è un problema per quello, se lo vuoi sentire. Uno di questi giorni te lo faccio sentire. Quando parliamo io e Marco, facciamo le prove e te lo faccio sentire in diretta. Capito? Tanto c'è due antenne, quindi non c'è nessun problema. Io parlo in digitale con uno e ti faccio ascoltare a me e a Marco. Così sai come si sente. Meglio sentirlo, vedere un po' com'è la questione. Grazie. Dimmi. Ma cosa stai? Mangiando panettone? Oh, vado nel computer. Ah, cura. Cazzo. Così girava a battere il computer. Adesso lo spento, va. Ore. Ehi, Gianmarì. Io dice qualche cosa, almeno tu, Gasta, dai. Grazie alla mezz'ora, ad aumentato stasera. Era una gana, dito. Tutte le sere sembrava matracca e oggi, è tutto moscio moscio. E tu, ti attacca dare il computer, girabascia tutto, girabascia. Ah, paghissimo. Grazie. Ehi, mi lo sto spegnendo, sto esaurendo l'arresto, eseguendo l'arresto, spento. Vai a Tony, Tony, aiù, riprende, grazie, riprende, aiù, io mi rommo. Ehi, ciccio bello, Luca è uscito a stigliarsi le mutande. Passa meno che gli dà un po' di bannolini, vero Tore? E allora, ma dava dando un po' di bannolini? Ma te la puscio. E allora, non faccio manco pizzata di figlio. Mi stai, te l'ho detto io. Abbiamo fatto risparmiare di là, ma ci rivolgo Luca, Gufo, già c'è io disponibile anche per lui. E lui magari forse gli servo di più questo periodo, specialmente con l'influenza. Caspita. Così che conviene a... mandagliene un paio, dai. Se ne venga un colpo di dosso e si caga le mutande e si ribrucia. Si vuole un bagno, doppia azione. Assorbe tutto. E non riscalda neanche il sedere. Davvero? E allora, sì che sono della linea, sì, per l'opè. Ma che tu le usi? E allora, dormi, dormi, tranquilla, giusto, linea, notte, assorbe tutto, vero Tore? E pure la canzone di canta mi Gio Mari. Canta, e te, e se la mente a me pure. Ha ammaestrato bene, si è. Si è ammaestrato bene adesso, capito? C'è anche quelle lì, gatto, sì che la marca è Lines, usa quelli anche lui, là, è visto, ed è sempre asciutto, così è graziato. E allora, così non mi brucio di mondanti. Graziano, è unico, E si brucia duri, proprio bruciati, da lampati. Ma chi ci vuole un rinforzo, Senta che andiamo via, andiamo. E rimani tutto contenuto, manco lo spiraglio esci. La capillaria. Bravo. Bravo. C'è bisogno di andare a dare ogni tanto una cucchiaia piccolino come fa Luca a Gufono. No, e io mi vado ad andare una testa, ma cosa di notte intendi pesanti. Certo. Proprio così, babbo. Alla recupino io, Graziano. Da poi quando cammini ti tocca camminare a cucci facci. Non hai mai visto che ti cammini a cucci facci. Altri toccano le cose, si ricordano uno all'altro. E le cose devi darsi facile un elastico. E cosa mia, grazie a Parenti. Cagata, sì, e ti lascia col capito, arriverà bella uga. Cagata, sì, sono cagata, sì. Cagata. Cagare, tu riesci a rendere in tanto? Ho cambiato ogni fuggi a destra, a sinistra, e la rubata al muro con la mano. Cazzo ci sono. Sempre se ci danno gli agili. Vuol dire che si intendia un bel pesante, si intendia. E allora, ma come la diciamo a tu? Miottolo. Andiamo che vado a pegare le sigarette, io arrivo subito. Ah, aspetta che te lo do io una pipetta. No, mi vuoi un cannone, mi vuoi, va. Mi vuoi un cannone, fa la cacciucci di virus di uccione. Andà, grazie anche, se no da voi è peggio. Vabbè, già è sotto a casa sua, mi pare da macchina. Mi pare che l'ha pulito di rubare, sotto a banco. Bene, Antoni. Vado al fornitore, lì vendo, quel bar vende le sigarette e vende, capito? Vado lì e vengo subito. Ehi, già siamo qui, aspetta di me attaccare una bionda, fammi. C'è una bella ragazza c'è dentro che ci lavora, capito? Metto qui calda, ma... Noi aggiungiamo la bionda liquida. Anche quella già mi prendo. Mi siedo, piano piano me la bevo, fresca. Ah, lo sapevo io, Gio Marì! Mi era accusato a pigliarsi la sigaretta, Però, anche a lui gli piace quella questione bionda, per cui si siede e la tracanna. Fai bene, Antonè, fai bene. C'ho anche il vino, per quello, qua a casa, l'ho preso l'altro giorno. È stato vero, mi è costato, grazie, quel vino. 2 euro al litro. Da Santa Maria della Palma, però è vino, non come quello che vendo dei circoli, che è acqua. Io Santa Maria della Palma, quindi è buono. E la cantina però, nelle cantine le trasformano anche i vini lì, Lui, il vino buono è quello che facciamo noi, sappiamo cosa ci mettiamo o no, così è to. Infatti. È così, però sai che di quelle cantine che non mettono nulla, allora si può andare. Quello è Santa Maria la Palma, è buono. Anch'io da andare a caricare e andare a cucinare vini, specialmente il bianco, quello con la targhetta, l'Aragosta si chiama, c'è l'Aragosta disegnato. Buonariggio, è poco gusta, ma lo sai quanto è buono quel vino? Oh yeah! Qua boccaccia mi, manna 30 centimetri, laga 20, vede imbustita e chi vi lo pare, al porticciolo, a orcia a mari, d'una magnata, oh yeah! E quello ho preso, quello bianco io. Ormai hai visto che qua non è più come prima, che andavi direttamente nella botte in acciaio e mettevi il bidoncino. Adesso c'è il... come la pompa della benzina, c'è, come si chiama, c'è. Prendi lì, metti il bidone, clicca il pulsante, tac, come quando metti la benzina per la macchina. La stessa cosa, ti segna litri, quanto costa. Ciao socia! Quello bianco, la ragosta, però devi prendere. Però è caro, però è super vino, buonareggio, oh yeah! Lo so che è buono, già lo so, l'ho preso, infatti, ho speso 9 euro per 5 litri di vino, figura di due. Allora non è una cosa, perché costa un bel di più quello lì. Se ti sto dicendo, è più caro che c'ha Santa Maria la Palma, quel vino lì. C'è nell'etichetta, è bianca, e c'è disegnata l'Aragosta, arancione, e poi scritto fino all'Aragosta. Adesso quanto è buono, infatti lo consegniamo ai bar, ai ristoranti, e alle... anche se all'agriturismo, in discoteche, perché è un vino un bel buono. È uno di questi giorni che ci vado, già glielo chiedo se ce l'hanno, me ne prendo un litro, vediamo un po' com'è, se è buono come dici tu. Va bene, che vado 2 minuti a prendere le sigarette, ci sentiamo fra poco. Guarda, ma è preso sempre, lo vedi, poi me ne dai a ripuglia. Scettore, avanti! Quando non ci sono conservanti è sempre buono il vino. Ti sto dicendo che è il migliore. Anche il rosso è buono, però quello lì in estate mi ha ucciammato. Dammi una giubizia, una giubizia, anche di breci, barò, E che ricucciniamo. Vabbè, purtroppo. Avrà che tazza nel bosso viebbo. Ma lì ce l'ho fatta nuda, è proprio uva uva, è buonissimo, poi fresco è fresco. Che è città? Ti sto dicendo che è un bombo. E poi è il vino più caro che c'ha quello. Lasciare il vino buono, chi lo faceva, ma molti anni fa. In coso e a Porto Conti, lì c'è una villa grande in mezzo alla pinnetta. E allora prendeva tutti i fili che facevano i tramariglio quando c'erano il personale lì, no? Erano tutte vigne quando c'era il carcere lì, no? Erano tutte vigne, allora tutto è l'uva di quelle vigne andavano dentro questo stabilimento e facevano vino lì. Ma quello era vino buono veramente. Vino proprio vergine, senza niente, senza conservanti. E io lo prendevo, lo portavo da Multireddu e Multireddu li imbottigliava e li vendeva. Ma di tanti tipi di vini, Ma vino buono come quella zona io non l'ho mai bevuto, Ma io ne ho girato i cantini di vino. Ho girato quella di Calangiano giù, di Gentio. Andavo a caricare e poi gli facevo le consegne e dunque lo assaggiavo dappertutto. Quello di Nuoro, chi c'era un bel grosso, chi c'è di Zosso, chi c'è di Zelle Mosca, chi c'è di Santa Maria La Palma, quello di cosa che lo portavo vicino dove lavoravi tu da Cogomme, come ti si chiama, gli va a fianco, mi dai su. Che va via a rovina, io ce la regavo con l'autobotte addirittura, da Oristano, vicino a Oristano, non mi ricordo che paese adesso. Sull'acqua era quello che era vicino a Cogomme, sull'acqua. E ho fatto uno scherzo a Mario Mao, la buonanima, una buccia gatta. Allora facevo il campeggio io al quarto pettine, no? E l'ho invitato a venire qua a Platamona, no? Un giorno. Oggi vengo, domani vengo, ma dopo un mesetto così è riuscita a venire con la moto, allora c'aveva la lambretta lui, è venuto. Ma io non avevo niente perché è venuto all'improvviso. E avevo delle bustine di preso da quello lì, da sull'acqua, no? Gira a gira ho mandato mio figlio a la fontanella, ma tu vai e riempi questo boccione di acqua, che è fresca quell'acqua. E ci ho buttato due bustine di questa cosa. E ho aperto questo bicchiere di vino fresco fresco. È stata una settimana di diarrea. Otto. Sì, sulla lava con quelle bustine. È come quello quando lavoravo da ragazzo. Lì in via Civitavecchia, dove c'era la polizia, il vino era, lo badiamo a bustine, e va a bustine, però devi mettere il dosaggio giusto, quantità di acqua e tutto di bustine, se ne vuole di più è logico farsi male. Il vino era fatto con bustine ghiaccio. E così fa di ghisa, aggiungi alla bomba, poi leva e ci curia le bustine. Non lo so se li portavo io il vino con l'autobotte. E te lo allungava ancora. E la voce di Mario. Buono di sei in frequenza. Andiamo a entrare, lui dice a tutti, chi tu, che tu, che l'ho fatto io. Ho detto, una settimana, una chita è stata diarrea. E infatti l'ho messo troppo, capito? Poveretto, cazzo. Poi più ne vedia, più ne piazza, ci senti tu quasi un bacione. Cazzo, c'è buono questo filo, tra meglio, da sosso. Otto, tu già ti immagini là, con Tiago. Purtroppo, quando è così, non si sa il dosaggio, fa di male infatti così. Ha una da diarrea, oia, è poco feo. Che peccato, che non te ne sei oltre l'aveva fatto la educata. E io, quando entrava di queste cose, io accusavano il travo. Oia, gatta, e la voce, non fa di altro. Che ha già fatto il vino, un po' tira, gatta, e carezzare, gatta. E sull'acqua era chiesto grazia, era sull'acqua. Già lo so, ma anche lì, dove c'è il distributore, fa vicino a Olivia, alla Gonza, dove c'è il fornitore, lì di fronte c'era un rivenditore del vino, anche a quello glielo portavo con la botte. Il vino, però lui lo allungava, buoneva e Purovici si chiudeva in mezzo le bustine e lo allungava, capito? Adesso non so se c'è ancora quello. Chi dove vicino dove lavoravi tu mi pare che non vedi più, l'abbiamo sgarrato. E anche quell'altro che c'è in Santa Maria, Salendo, che vende tutti i vini, anche arruolati d'ozzi. A chi ci me la regava in cassone, Barò, i vini buoni, là. E gli ho consegnato dei vini. E anche un'altra, anche la Cagliaritana, è un paese che non mi ricordo che fa, Marrubi mi sembra. Portavo il vino da lì, con l'autobotte. Ehi, solo ci vini portati da quelle zone, da molti. Da molti, anch'io ne ritiravo vino, però ne ritiravo tutti i cartoni, ho già capito. Monti, a Coso, San Vincenzo, vicino a Cagliari. E da un bel di lui, e la pernaccia da Cabras, certo. Ancora fino a giù la puntampula di pernaccia, ma non c'è cantare, devi fino a giù. Una trentina d'anni, una chissà ampulla di ferraccia, grazia. E la giambella c'è lì, è limpida, limpida ancora. Bisogna vedere se non si è pigliato l'usatore di risuaro, a chi vi la viampa giù l'ampulli. Anni, sotto il lavandino qua, in un angolino, una via, ci tirava là, bravi lì. E io dico che sarà buona ancora. E ci aveva preso il coso del tappo di sughero. E infatti noi era assai buono. Già l'abbiamo consumato perché era colore oro, rimania. Come colore era bello, però come sapore ci ha preso il sapore del tappo di sughero. E noi che mi piace assai. Non lo so. E mi lancio una pula ancora ai ghibi, che la tocca da male. Ma la salita la una sampulla, lancio il cuore giù il tubo per la ghiccia ancora. Ancora i nonghi, anche nel labbro mi vedo un po' cosa dici. Ce ne sono, non hanno visto vini buoni, cazzo, però va tutti in ciappuglia, va cazzo, è un macello. Troppo medicine ci mettono adesso anche sull'uva, per cui non viene la fatta, è come sia la medicina in mezzo, capito? Per cui se non mette questa medicina non dura. Per durare deve per forza mettere questa medicina, capito com'è la pazienza? Senza queste medicine non va, non dura niente, come tu lo apri, se non te lo bevi l'indomani non serve più. Ma a te la dico una cosa, una volta ti ho pigliato il vino da Zuccio, da Vizio, massaggiarlo, La gestione non deve darmi 10 litri adesso, se mi piace io ti occupo la legge. Beh, io associo era buonissimo questo vino, proprio buono ma buono. E va bene, me l'ha fatta assaggiare. Alla rega a casa, lo pongo. I ghibi stavano riposti in terra, le buccioni. All'indomani a mezzogiorno che andava a pegliarne uno, a mangiare, a punire la mangiare, no, e a bere. Adesso il vino va via tutto un sapore bussinoso, faceva schifo. Ehi, chissà cosa fa appunto, mezzo gatta, beh. O anche lì ceggio che non li lavano bene, gatta, anche quello conta molto, Perché se le botte sono lavate bene e messo quel metodo, come cavolo si chiama, la secca mi pare si chiama, per disinfettare tutto all'interno della botte, e fate medicina, grazie, capito? Oggi se non ci sono, la medicina non dura il vino, è così purtroppo. Avanti to. Vabbè, già si trova nel buono, ma da te sale. Lo sai invece cos'è? Perché sono andato a di video, e invece l'ha già buttato in da rete un altro. E l'ha già attaccato di chi dà, eppure rovina la buona chi dà. E mi ha detto, è l'uggiambamento dell'aria, da su a Sassari. E che cosa vento l'uggiambamento dell'aria? Se trattarà un pulla. Quasi così, e in effetti era vero, perché quello che gli ho portato indietro, l'ha aperto lì, sì, la bide, ma che cosa fai su vino? L'ho assaggiato anche io, ed era buonissimo. La rigava a casa e faceva schifo. Sì, il vino di sorso fa così. Il vino di sorso, per essere buono, gli deve mettere un conservante. Guarda babbo, noi la campagna al sorso ce l'abbiamo, era tutto vigneto, lo abbiamo sempre fatto il vino. Oh, eppure io questa differenza da campagna a casa, ruati rossi, non l'abbigliavo di rovino che facciamo noi. Sarà perché babbo mi disegna, non è buonia, metteva solo nella vite il verde rame e buco. A se mi disegna non è buonia, chi va via mi rulacco, dentro la casa e tutto. La sorpresa lo facevamo noi il vino. Sì, vabbè. Però a sorso, per portarlo fuori e altri posti e cose, gli mettono un pochettino di conservante, gli mettono, per tenere proprio quelle cose lì, per essere buono fuori. Oh, adesso lo bevi lì, non ti... No, no, rimane sempre buono, rimane. Infatti poi già me l'hanno detto, ma anche in altre cantine che io gliel'ho detto questo fatto. Mi hanno detto sì, dipende che tipo di vino è anche, e dipende anche dalla lavorazione che ha avuto, fa quel difetto lì. Non tutti i vini, alcuni vini lo fanno, mi dicevano quelli delle cantine. Infatti è così, Per portarlo fuori e bello fuori in altri posti, ti mettono quel tanto di conservante per tenertelo fermo. Infatti tutte le volte che sono andato a su, oh, massimo ne pigliavo un buccione, quando arriviamo, se lo facciamo pure, anche tanto da buio, ci ambava saori. E infatti a sorso poi non ne ho più comprato. Prima già lo prendevo tanti anni fa, a bidoni. Un bidone, due bidoni di 20 litri si riparavano in campagna, a chiedermi un bene, allora si facevano spesso mangiate, 40, 50, 60 bassoni. E allora conviene anche farlo così. E infatti, tocca fare così, tocca fare. Va. Ma noi ce l'avevamo il vino, roba nostra, e mio fratello lo faceva, era sempre buono, però era vini di renaggio, non erano forti, capito? e viene il raggio solo i giri. E i subirottolo con i pipì, i canti di via via, hanno ti fatti a male. Certo, se da voi i sergereggi e chi su muro o in timbreaccheggia, capito? Però io, capito, mezza bottiglia me la bevevo, io parlo di 30 anni fa, mio, 8 e più, e lo registrevo, ma adesso e devo finire il raggio. Le potevi bere tanto e non ti faceva niente. Però vino di susso è troppo pesante. Io sono vino di Oliena, in questa zona, è poco forte, di vino, grazie a tu, già riconosci il vino. Già ne ho bevuto, ad Orgali, tutti i paesi, già l'ha giubito, perché andavo a mangiare in quelle piccole trattorie oppure in case private che facevano da mangiare. Lo mangiare già era sempre il sulto, cigioni sardi e cinghiale, verdura, insalata, cinghiale, cacio, frazzico di tutti i maneri, salsiccia, salamini. E così non ti cucina la maglia, ma da poi a finire fino a ferro. A pigliarti anche. Allora si esagerava, sì, adesso è di meno perché molte persone non bevono più, anche per il fatto che si guida e per cui è molto pericoloso. Però prima si beveva un bemmi, si dice magari quando sei in greppa, magari uno di fa percorsi, allora uno si guarda già prima, se no, gatta, aspetta. Aspetta, quando abbiamo la cabina io in Platamona, gatta. Si separava un venerdì la sera, stasera la domenica, ma chi era sempre a maglia e a B, ma poi erano due giorni, cattasse 30-40 persone, catta, catta serate che non finiva più, ah vai, perché non si può più B, se tu esci devi tornare sano, sennò è chi dà ragione. Prima si poteva fare, avanti, nicchici, finite le feste. E prima il camion a me mai mi è mancata l'ampulla di liquori, o stravecchio, o whisky Don John, o a Cinar, vodka, va via là, l'ubarra da reggio, a rusedire io. Non mi mancava nulla, Tore. E Tore ci deve essere assentato. Altri tempi, là, là. Altri tempi. Lui terminati vasi amici di Zugri, come io, gatta. A 6-4 c'è qua famiglia, gatta. Era crepatura. Era fatta proprio apposta questa cabina. A magna la B e basta, la magna la B, io già, l'imbraghiri. Io la regavo sempre da ittire l'uvino, no, da mezz'oretta. Però da poi non abbia più, allora bidavo da susso. Una volta è giunto mio cognato da Roma, catta. Allora mi risorse di Sibono, gli allugrivia. Catta, se era una dragonaia, era vivente, chi su, catta. Da poi si fa la paru fumo. Anche lui, non ti credimi, in campeggio Roma stessi. Tu gli imbriaghi, a farci di con le spalle ad Arezzo, a 30, all'umaccione. Chi verrà nei ghivi, e allagati tutta la notte, fuori ai ghivi a Cirina, non ti pensava nessuno. Le domani quando ti scendavi eri tutta tuntuata, in mezzo alla bracca. Era mi giovane allora, era diversa la questione, là. No, pensamenti non finirani. Erami giovani, per cui ci facevo un po' di tutto là, per cui va, cosa fai va? A mare, va, non si può una macchina, si appara macchina. Certo, e si è per un bosso di giugno, devi pagare, se no non più vuoi andare. Se vuoi andare a mare, ma non pagare, devi andare lontano, devi fare un mezzo chilometro. E allora sì. E mi, la salina di fatti vedere, Stintino ha fatto vedere, hanno messo la tassa, come ti si chiama? Che tu andi in vacanza, noi, pure se andi in Baunadì, fai tra Stintino devi pagare una tassa a te, una tassa. Ogni bassola deve pagare una tassa. Tu andi a mare, paghi il parcheggio della macchina e la tassa di tutta la famiglia, in 4-5 sì, e paghi ma 4-5. Fa tutta la lista, rimane tutta la lista, rimane 10 di paghi ma 10 di. L'altro giorno le stavano dicendo, e quella che c'è lì in quel resident, ma intanto vengono lo stesso, la gente verrà lo stesso. Adesso vediamo. Il soggiorno ti fanno pagare, è vero, io l'ho sentito anch'io. Il soggiorno. È giusto di bari, ti arrivano in linea e travaglio. Ma secondo chi trovi vedrai che non ci fanno più per puntiglia, no? Non magari paghi se ti che devi pagare, ma puntiglia, bravi, ma ti pare che mi devo pagare, che so come venendo a soggiornare, ma una di si andrà a mare o due di, ma buffonelli, a chi lo so che ero male. Purtroppo, hai visto come fanno le leggi, lo prima che se ne bisa, cazzo, faccio le leggi, paga, e questi soldi a chi fanno questi soldi? Sto sentendo, cazzo, che fai tu, devi andare male a Platamore, vediamo a Platamore, un elettorale, cazzo, tu non puoi passeggiare più lì, no? Ci sono i parcheggi a pagamento, sì, puoi passeggiare di bagaglio, non ho niente a fare. Invece prima, spiaggia lì era libera, no, ma tutti, cazzo, avanti di pagare, fa la macchina per entrare a bagnarti, e non so chi, E allora, e pago proprio per andare a un mutinaggio, è un mutinaggio che su lungo, cioè è un anno che non penso che sia andato, mi sono passato da poco, tornando da poi su Dorra, tutto il lungo mare. E tutto il mondo è a 36 binetti, chissà di sarrone che viso non andino, e chissà di siringhi, e vai che non vanno manca gratis. Ma lo fatemo non noi, grazie, e a Mariano, ma poi di sì. Due volte mi sarei bocciato a cano, passato, ahi, mi avviso la rotonda. Che vera menura con i figliori, me ne botti e noi erami in un luogo, da poi siamo passati chivi e catta, ma passeggiare per un bagato, catta, ti puoi immaginare, catta, boh, non so chi. Se tu puoi per esempio posarti lo Taurino, cazzo, devi pagare, ma devi consumare, sennò devi pensare a Tini, Ehi, ma poi sono passato in macchina, se sta filmata, vai dai a andare a se ti fermi devi pagare, secondo un niente ti fai di pagare, lo so giorno, via vai, prova la macchina, qua. A se mi sento 5 minuti, vengo subito. Ehi, grazie. Non c'eri poco fa? Ma c'ero io poco fa, poi sono andato in stand-by. Ehi, non mi sono sentato più niente. Ciao Marina, ci sei? Ehi, Marina, ma ti ho visto un bel dazzone di ghettoli. Integratore. Ma non ti fai male, no? No, se me l'ha consigliato il medico, mi devi una tazza alla vita. E più uno di questi fermenti lattici. Quello serve anche per il colesterolo. Dove? Uno al giorno di quelli, e una tazza di siete gratuiti. I nocchi di campagna deve mangiare per il colesterolo. Ti abbassa molto il colesterolo con i finocchi. Allora che io ci la metto nella TV che nella buccia dell'arancio ci sono più vitamine, anche se ti mangi l'arancio, se tu ti mangi anche una fetta di buccia d'arancio. È più nutriente le vitamine, c'è vitamina C e un sacco di altre vitamine. A, D, E, B, C, E, I. E tutto fa normale. Vero, Giomari? Io ne mangio quasi tre a ogni pasto. Non sono maturi maturi, però tre me ne mangio io, sia a pranzo, anche la notte, e col pane pure. Io lo mangio col pane, gli agrumi. Però ha detto, se esageri, fatti burumari, non è che possa sempre bere, devi mangiare il dosaggio giusto. Sì. Oggi va lì, c'è quella pancia, ogni tanto me la toccava. Cazzo, quella pancia, ho detto non tocchi molto, se non cresce di più. Hai c'è dottoressa, così l'ha giudito me. Ma la diabetologa? No, quella che mi ha fatto l'ecografia al cuore. In effetti la pancia mi dai, l'ho sempre detto io. Hai visto tu, Ti l'ha detto la bifferina oggi? Me l'ha detto, quella pancia. Non mangi pane, non mangi pane, ma dico, non mangi pane. Sì, un pezzo, vabbè, non può mangiare, no, per faccia come mangia lì. Se in bocca mangia, se ci vuoi, scatto un panino, in 3-4 ore un arancio, me. Mi ripucci due, un panino li vorrei giù subito. No, io a giorni ne mangio, a giorni non ne mangio pane. Per dire oggi, mezza focaccia di quelle lunghe. Quanto è il palmo della mano, là. Me l'ho fatto la metà, mi è giunta gana di salame, quel salame è bello manno. Ci ho messo il salame, la bumatta, un pizzico di sale e la mozzarella. Buona reduina! Boh, sai che oggi ha cucinato a pranzo cavo la fiori con le olive, no? Con la pancetta affumicata, eccetera. Beh, lo sai che non ho mangiato pane con i cavoli, però dopo ho mangiato i cavoli mi sono preso due aranci. Mi sono sbucciato e me lo sono mangiato con mezzo panino. E poi ho mangiato anche un chivo. Inteso, Ettore! E tu a Picresa hai mangiato mezzo panino, ma non lo so, curò! Ehi, un avanti, sì. Ma vedevo che lo faccia io burro, lo faccia. Anche. Arbe, ti mangiare un kiwi di bassa tutto di bassa. Questo si fa. E invece non ho mangiato, me l'ho mangiato solo così. Il capo l'ho mangiato solo così, senza pane. Adesso a Caribesto li dice, a Gio Maria o a Torre, vi siete capallati. Vabbè, eventualmente non ci siamo sentiti uno con l'altro, chiedo scusa. Vabbè. Potete sentirci in due. Che cosa ti dà fava a te, Tore, Gian Maria? Non passavi, ci sentiva solo... Però la voce tua non la sentivo, e sei più vicino. E Gian Maria ti dà fava. Hai capito, bello bene, tu, hai capito. E sono piccolino. Sì, vuol dire che eri più forte di me. Vuol dire che ti sei messo sotto accetto stamattina? Cosa vuol dire? Succede perché non lasciamo l'attimo di bianco e allora succedono queste cose. Abbiamo fatto come fa Graziano qualche volta, ma Graziano fa molto spesso però, perché c'è il dito facile lui. noi magari lo facciamo io morto il pappa, to. Sì, perché ci dobbiamo aspettare molte volte a partire. Ma c'è Dobling di... Avanti, bello bene. Lingamara. Ehi, no, era nel loro telefono, già vi da Paoletta, il camerata ha letto. Ehi, già succede, va. Ogni tanto già parte anche il mio destino, però, e vabbè, già non è cosa amara. Riprenditore! Catta, andiamo via, andiamo. Comunque, fa vedere di magna. Mamma mi sa che mi prenderà a fammi. Ehi, oggi io passo asciutta, buona redda era, con i pomodori a pezzettoni. Oh, io me ne voglio mangiare un altro piatto. E pare te cosa mi sia mai denni. E però, il bicchiere, hai già pensato, ma non li mangi. Sì, surai, E da dito ti pezzettoni ce ne tocchi. Quella pasta che sembrano lumache, come ci si chiama? Ma non me la metto. Se traduta la bumata a Trento, oh yeah! Lumachine! Come le lumache sono? Buona vita, non quelle grandi grandi, quelle mezze. Non che ti mani non mi piace. Quelle appena più piccole, là. Orecchiette o cosa si chiamano quelle lì? Avanti lo dico, aspetta. Lumachine si chiamano. Lumachine? Come si chiamano tu? Conchigliette piccoline sono. No, queste ragazze. Vabbè, dai, ci visemmo, non c'è nulla. E la barilla, buona rete, a che c'entra dentro lo sugo a pezzettoni dritto, mi. Oh yeah. Poi era così saporito il sugo, epita, e non mi ha fatto bigliastro. Ma lì ci vorrebbe il formaggio sardo, proprio grattato sopra, ma quello sardo però, grazia, non il parmigiano, formaggio sardo grattato ci vuole lì, di quello buono. Vera, il parmigiano è la giubbotto buru, la beretta sarda. Sopra, buona vita, oh yeah! Tender, aspetta, ma le posso altro, no, in mezzo? E la bella giudizio, dammi due chi si bumati gamona, chi c'ha mozzarella, e chi si sarà il vento che ha giù visto il frigorifero. Ho preso mezza focaccia e mi ho fatto mezza focaccia, però di quelle lunghe, non so, saranno 20 centimetri, non era neanche grande, e mi ho fatto mezza di quella, è una fela, e boh. Cos'era, salamini negroni, quello bello rossaccio, caspita, bianchino. Belli maturi di vetti, bello ruglio, vetto, saporito frutto, poi bello profumato, e mi ho messo... tre fette di quelle, mezza mozzarella e due bumati gamona, buona legge so, e un pezzo a chi non vi cadia me la rimagna di così, grusari, sono un bacio politico e pomodori. Va bene, già va bene, già va bene, l'importante è che si riempia il sacchetto. Non troppo, regolare, allora fa tutto bene, digli otto. Infatti, ma mangia regolare, con tutto come con peso, a voglia. Basta mangiare così, normale, e vedere non salta la glicemia. Oh, non sai quanto ce l'avevo prima di mangiare? 115. E stamattina posso mangiarmi due fette biscottate, mi ho mangiato... quattro biscotti, con il tè, tanto baciambaggio, dice, beh, allora mi mangio quattro biscotti, e mi ho mangiato quattro biscotti, e prima della una ce l'avevo così, 115, e di notte addirittura via, a 94, ha detto, boh, allora so che mi le volte solo in anno. Invece poi me ne ho fatto 5, ho messo 5 cc, ma... Sì, io invece devo mangiare tutto a pizzo, devo mangiare. Quindi... Mangia a tappeso, se no non da va. Ma levano e turrada, no? No, a casa di te giù, a che ora viene l'acqua? Dai. 23. Alle 11 stanotte hanno detto. Disgraziati, ga. Manco che sono di tagli, non dire qua se ne travaglia puro. Dai, che gente di merda, ragazzi, sta banoa. Oggi è uscito pure a Rai 3, mi li ha fatti vedere lavorando. Un fosso, hanno fatto, hanno buttato un metro di tubo, hanno aggiunto, hanno bucato un pezzo vecchio e l'hanno buttato un metro di tubo. Ah va, lascio un l'hanno innestato, era tutto buttato male, tutto frase, con tutto buttato. A chi non hanno fatto il capo e l'hanno giambato un pezzo più male invece giamba. Un metro di tubo, non hanno compreso, mica fanno schifo. Che se no si riesce nei droppi di là, compreso, si riesce nei droppi di là, si riesce, sì. Ma bisogna buono manca a travagliare, sabano, ma patrignisci per pigliarci un capitalete. Non so dove hanno aperto, lì dove, al passaggio al livello, ad Agraria, lì hanno aperto. Bucaredano infatti chivi. In 4 o 5 punti hanno aperto, che l'ha detto anche al televisore, in che punti sono fatti i travagli. Ecco perché la dovrebbero riattivare alle 11. Beh. Li ho visti lavorando. Uia. Per carità. Meno male, già mi avevo riempito la vasca da bagno io, scatta, meno male, scatta, avviso, se no, cano ha saputo che mancava leva, è un guaio, più di uno è che non ha leva, se no che un barazzo, leva per giù io, a chi hanno l'autocravesoia è facciata. Già piena, però si rabbiglia con i zicchi. Sono io che rubazzo, mi lascio le ballate e non nani. Beh, tu hai fatto l'impianto, l'autoclave, c'hai il serbatoio e sei tranquillo. Quello vuol dire molto, vuol dire un bene. Però nel condominio si dovrebbe fare in condominio quella roba. Ma non si può fare nemmeno perché chi c'è e chi non c'è, chi paga e chi non paga. Guarda che qua c'era il coso del riscaldamento, c'è il vascone sotto in quei giardinetti che ci sono sotto a casa, sotto agli vinchi su mano a mano, i veri cominci, un giardino più in mano. Lì sotto c'è una bassa, enorme, che fa la prima, la seconda e la terza palazzina. E più lì c'è collegato, giù nei garage, ci sono gli sportelli con l'antincendio, solo un anno di trutto giusto, un anno burato giusto. E così la caldaia del riscaldamento faceva per tre palazzine, ha funzionato nel primo periodo, dopo ci sono mangiato tutto, scappola da destra e scappola da sinistra, fino alla Ianna si sono buttato. Per carità, non hanno pensato che si cose che hanno fatto, si viene bene, ma te. Troppa la pazzica, per carità, a che punto arriviamo? E a che punto siamo arrivati? Si stanno buttando i banchini che hanno venuto, hanno i nuovi in piazza. I cura dei banchini che lavorano a piazzare, se si buttano i banchini e poi che si io che devi venire a pulire i bizzini. A chi pensi tu che vi duriano assai? Azzetta. Sì, no, che avverrà da noi, no, abbiamo fatto un campo, un piccolo campo sportivo, no, per giocare a pallone, avverrà di no. Cattere è bellino questo campetto. Beh, c'era anche, mi sbaglio, 8 dici banchine, vero? Di ferro. Bocciate di sestirare, però è rimasta una solo. Chissà, fino a bocciare dalle campagne. Era bocciato, tutti stanno bocciati, grazie. Non immagina cosa dura i nonchi. Boh. E anche lì vicino dove c'era la chiesetta, lì su c'erano due campetti da tennis, mi pare si giocava. Con chi si arrete, chi su yogu, a racchette, anche a calcetto. Ma sei durato, vai a vedere, è tutto distrutto, qui c'è la rete si sarebbe buscato. E di bari buru. Ah va che se non c'è un controllo, se si butta lì tutto. Tore! Ehi, grazie. Oh, io gioco tu scendi. Vedi un po' cudeva. Se non pone un controllo e non cava quando fini in giro giusto la piazza, se si buttano in tutto, fanno schifo, fanno. Figurati che si sono buttati pure i basculanti dei garaggi e i bortoncini dei buscari. Anni indietro, pare intanto se si sono buttati. Ah, ci sono una massa di ladri, so. E se ci appende l'abbiamo fatto per comparare tutto nuovo, l'abbiamo fatto comparare. Ma noi sono inocchimi, l'altra notte al televisore, la telecamera a Milano ha ripreso questi due tipi, sono entrati a buscare a Bisto, uno ha bucato una berra, e l'altro ne ha bucato un'altra berra, e l'altro era di montare il telaio con un abitatore a batteria, si sono buttati a buscare a Milano, mi. Un portone in alluminio verde da due anti e la risvoltata si era imbustato a Milano e io non so fare il meglio e non lo so cosa segni, non è solo in Occhino, c'è pure l'arte di Rughi anche nelle altre città, so pure è tutto pure. Aspetta vai su chi sa di assetta, io bisogna fare le banchine buono, no? E i lampioni, le luci belle, tutte si buttano, grazie a... I lampioni con le luci, bisogna, sono belli buono. Devi ne attaccare ancora. I giochi dei bambini, fare il tappettino lì, fare i bizzini, ma non so come ti rubate, se è in plastico, come lo fanno, non lo so. E le banchine devono mettere. E tu pensi che vi giuriano? Oh, se non va un controllo, se si butta le canto qui. Gente male si acciappa. Ma no che no, mi sono i bissini. Beh, sotto casa mia, no, vedo lo ballo di Ludra, no. Con peso, ma sono itte che scritta tutti gli draghi passano ieri. Lascia lì, verrà uno di noi che desidera, ma te sei un giovane. Si voleva con due mani, si stava poi a cabatterra, in rubare, attaccando e scudia, con i piedi, a un castellone dove erano iscritti tutte le cose che andrà. Tutti fasciati là, lui sa. L'ha riposo, ha detto, ma cos'è che sei, non ti fa la vergogna. Allora si mangia, a rompere che si chiama, mi ha detto così, ha fatto i cacchi tuoi. A chi tu devi filare la bulla da casa tua e accudi via, da rubacone di chi vedi lo salone. E la pesce non da te che cazzo di una puttia. Una bulla dura, piglia e viene a cui, e sta cui, non vedi che ne ribassano macchini. Ehi, ma fa vedere male. Cazzo. Ah, c'è da accadere il messo che tra dentro. A chi so, gente, se poi si fa dei ripeti, capito? Si fa dei ripeti, invece che... Beh, è tutte le cazzo, cosa vuoi fare, grazie? Cosa vuoi fare? Boh, allora delle cose ti fa vedere male, non ti credi pure di cui il buono. Beh, che da poco erano una decina, e no, che sono stato un po' cigare. Mi sono cacciato di erano venne casi, una giubilata ci ho cominciato a carraccia. Ma sta truca per me lei sta sputando, e io sì, e quando cazzo c'è di andare a venire da lì? Però non ci fa così, è maleducatore, cammina andati in due là, e chi si aggrepa di macchine, bisogna imparare, se no so che fare la giusta, te lo do qui. Beh, ha già fatto una vita di fare la gitata, ma so che fare, mi sono rientrato. tutti bugiti, so. Se pensi di dire ancora a vicino, dimmi. Non conviene, grazie. Tanto a chi se c'è voce si unire, che sa gente mala, sa gente risultato, sale, non fate niente, a chi sa niente fate, chi sui fuori, capito? E capito, invece mi sembra sempre noi a fare delle cose, capito? Per cui vai a dire le cose giuste e a te le fate lì, a chi ti fa vedere male, allora c'è quel freddo. Tacca e andatine, boh, non per la soluzione. A chi si fa vedere, magari secondo questo ti rompi il muro, capito? A chi la gente è diventata così oggi? Ehi, non è così, ieri mazzano, macciare, lì, veri vengono. Invece di Mignano che ci si farà le viaggiose, a chi ha stanno rugate a Baita, mi vede la sala che ci si farà la giosa, non hai compreso. Catta, è inutile fare forse miglioramenti, catta, in città, catta, da voi, chi c'è di pire se li faccia, catta, e faccia di tutto, di panchine, per i banchini, no, che catta, arrivi, un di fai maldranno, catta, fatti nuovi nuovi, due ghisi non verranno più, tutti fasciati rami, con metri di ferro, i fusenti, ai farali miri, ma non è possibile, cazzo, che domani, ma non appena perdere quasi l'occasione che c'è niente, boh. Ma che sono una massa di maleducati, come ti sono lì, che si mettono i suoi genitori, genitori praticamente come te che non hanno magari da voi andare i genitori. Oh, mio figlio, no, non sarò bravo, mio figlio, non ti fate queste cose, no. Capisci, ecco come c'è di male. Ma che non sono riuscito a correggirli, dico, come te devi a correggirli, capisci? Allora, infatti non che gli hanno bisogno di niente. Avanti tu. Cata, hai che bisogna... Le vatene due beggi, no, che ne fatene. Una vipera era logosa, era nel fascino logosa di Rodra, ma nel fascino di un castellone tutto canto. Poi mi ha rotto la lascia, che ci ha contatti la lascia, con una svista pescata una a capo. Oh mia mamma, sei uscito correndo, è andata a casa Giulia. Adesso mi ha fatto un buco in capo. Hai fatto bene, e tu dove fai così, chiamare? Figlia la pulla, ecco di via, mi hai visto che ci chiedi, non verrà più manco passati. Troppi niente male, troppi gioventù bruciata, proprio, gioventù bruciata, per carità, cazzo. Non si può dire proprio nulla, gatto, ecco lo fate, a chi si fa vedere male. Sono male, educati voi, per carità. Ma ti pare che fate un miglioramento, quasi in strada, e tu andi, gatto, ma cosa ti offendi? E te ne faccia, gatto. Pure i gestelli, lasciare i gestelli che hanno in giambaglio, in ondi per un drago sotto casa. Mi pare che in un anno, che si così i gestelli hanno in giambaglio. Ma tutti i mali li pigliamo a cose, a forza di fare bene, e in canto non hai sbagliato, grazie a... Guarda, infatti, per la punta, infatti, tutti i lasci, come te ne tu, e qui la tira la sticata, capito? Ma si passivano. Hai compreso che io mi filaggio in veranda ora, marcheggiata ai vivi, con un biombino in canna. E vabbè, mamma, c'è da leggere la tenda, ne pensi che uno ne vede niente fuggendo, non hai compreso. Allora sì che non ne vedi più. Io, per carità, a che punto siamo arrivati. Vabbè, signore, dai, io chiudo che entro un po' da mia nuora, che so più c'è gente che dà. Mi sento un po' carità, dai, ci stiamo domani, grazie. Buon procedimento, grazie alla chiacchierata, ciao Tò, altrettanto saluto in casa, riprendi tu, io chiudo, dai, a domani. Sì, ci sentiamo Gio Mari, dai, ci sentiamo, a domani, ok, ciao Gio Mari, riprendi, grazie. Ehi, ciao Gio Mari, a domani, ok, alla prossima, ciao ciao, buonanotte, vai Tò. Sì. Grazie, io sto andando a prendere la signora, sto andando a prendere. Quindi ci sentiamo, se ci sì, ci sentiamo, così no, a domani. Ehi, già lo lascia acceso qua, se si è tragato tu. Alle 8 meno 20 lo spendo, va. Ok, vai tranquillo. Ok, ciao, grazie. Ciao. Steppi! Ehi, you! Mormito sei! Ehi! Ehi, you! Ancora vivo, sì. Perché le dico sono andato a comprare sigarette? Sono sceso qua giù. Stavo parlando con quella ragazza bionda, buona. È sicuro. Ti ho detto che senza guru non è sicuro. Va. È sicuro, Mario. Mi hai chiamato 50 volte al telefono. Cosa volevi? Una, che ti portavo una birra a casa, un vino? Pensavo che volevi portarti una birra, un vino. Aiuto, 7 volte hai fatto squillare il telefono qua. E il telefono è lasciato a casa. E ti avrebbe detto che ero giù, alla cosa, alla, al tabacchino. E me la sono bevuta, sì, secondo te. Cosa vado? Solo per le sigarette mi sono seduto lì, stavamo parlando, poi è arrivato un altro, me ne ha invitato un'altra, uno. Era pieno di gente, era stasera. Mi hanno invitato. E ne ha approfittato. E magari. Cosa ho detto che si chiamava? Aspetta, come si chiama quel vino? Boh, scorpione, una cosa del genere. Mi pare che era. No, Aragosta mi ha detto, non scorpione. Aragosta. Dice che costa un bel. E Santa Maria a Palma è buono. Sì, se vedo buono già c'è quello, non ti preoccupare. Ho capito, preso là? No, non l'ho ancora finito. Io ne ho 3 litri e mezzo, ne ho. Adesso me lo prendo e me lo vendo. E io accidenti, pa. Tanto viene 2 euro al litro. Aspetta, è arrivata la pizza, 2 minuti. Ci sei, corvo? Corvo ci sei? Corvo bevitore di vino di Santa Maria da Palma. Ti godere. Avanti, ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu. Chi è là? Chi è là? Ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu. Ehi, caspita. Oh, yeah. Scusami, dai. Corvaccio ci sei.